Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Indio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22, 1 minuto e 57 secondi, questa come al solito è Radio Possum, trasmissione antispecista per la liberazione animale della terra. Anche oggi un'altra puntata estiva con questo il clima torrido di Radio Onda Rossa. Di che parliamo? E parliamo oggi, sentiamo il collettivo Essere Animali che ha fatto un'approfondita indagine su uno dei zooparchi peggiori d'Italia, lo Zoo Safari di Ravenna, dalle parti loro, perché loro sono per lo più emiliano romagnoli. E quindi niente, abbiamo in diretta telefonica un ragazzo di Essere Animali che ci racconta un po' di questa indagine che hanno fatto, poi vi daremo tutti i riferimenti per dove vederla online, sul web e niente, insomma. Yeah. E allora dovremmo essere in collegamento. Siamo in procinto. Siamo in procinto. Abbiamo al telefono. Stop consuming animals. Si dà un'altra canzone. Ci siamo? Pronto, ci senti? Pronto, sì, vi sento bene. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, io mi chiamo Simone, sono il portavoce di Essere Animali. Sì, sì, ti abbiamo sentito, ci siamo sentiti diverse volte qui in radio. E sì, voi adesso avete fatto, voi tra l'altro avete fatto un sacco di indagini, tra cui quella con Nemesi Animali sugli allevamenti di Visione Italia. E adesso voi come Essere Animali ne avete fatto un'altra, in realtà non proprio adesso, perché noi arriviamo un po' con colpevole ritardo, nel senso che di un qualche settimana fa, sullo Zoo Safari di Ravenna, no? Per cui sì, ti volevamo chiedere un po' se ci parli di questa indagine, come l'avete fatta, com'è andata, il materiale che avete diffuso. Volentieri. E soprattutto tutto quello allora, che c'è dietro lo Zoo Safari di Ravenna. Certo, è un'indagine che abbiamo svolto nella primavera di quest'anno e l'abbiamo diffusa appunto, come dicevi te, verso fine giugno, quindi poco tempo fa, e riguarda uno zoo safari che è inaugurato da poco tempo, all'incirca da un anno, nel maggio dello scorso anno, a Ravenna di fianco a Mirabilandia. Noi abbiamo voluto fare questa investigazione, questo dossier, per parlare nello specifico di questa struttura appunto, e con uno sguardo però allargato a tutti i giardini zoologici, quindi parlare di animali e della cattività degli animali. E abbiamo preso appunto come spunto lo Zoo Safari di Ravenna anche perché è l'ultimo realizzato, inaugurato in ordine di tempo come giardino zoologico, e perché si presta a un buon esempio in quanto ha un po' tutti quegli stereotipi classici di giustificazioni che vengono avanzate dalle strutture che detengono animali in cattività, e quindi per smascherare diciamo tutti questi loro presunti scopi appunto abbiamo realizzato questa investigazione e ci siamo avvalsi anche dell'aiuto, della collaborazione di alcuni esperti, degli etologi, dei biologi, degli psicologi sullo studio del comportamento animale, che hanno collaborato con noi, e il risultato definitivo è un video di 7 minuti e anche un dossier diciamo con tante informazioni sui giardini zoologici e sulla struttura di Ravenna, che potete visitare sul sito www.safariravennadossier.it. Senti, partendo dall'inizio, innanzitutto cosa avete riscontrato, soprattutto visto anche che poi vi siete avvalsi della collaborazione di etologi e via dicendo, cosa avete riscontrato all'interno della struttura, le condizioni di vita degli animali, okay, stress, sofferenza e via dicendo? Sì, intanto spieghiamo un po' com'è lo Zoo Safari di Ravenna, così chi ci ascolta può capire. È un, come dice il nome, è uno zoo safari, cioè una di quelle strutture in cui i visitatori entrano con le automobili o con un trenino apposito che appunto concede lo zoo. Fanno una sorta di percorso guidato, che è quello di Ravenna, di circa 4 km, in cui vengono visti, osservati 450 animali, sia esotici che selvatici, che sono appunto rinchiusi all'interno di questa struttura. I gestori dello giardino zoologico ci tengono a precisare che gli animali sono liberi, ma non è assolutamente vero, perché lo Zoo Safari di Ravenna certo non è uno zoo di vecchia generazione in cui gli animali vengono confinati in quelle gabbie piccolissime, grandi quanto il loro corpo, sono semplicemente i recinti un pochino più allargati. E quello che abbiamo notato noi, che tra l'altro abbiamo anche effettuato una visita con un etologo che ha anche collaborato con noi, Roberto Marchesini, è stato vedere questi animali veramente privati di ogni senso che può avere la vita. Sono animali che derivano tutti da una condizione di cattività, e sono animali che passano tutta l'intera loro vita all'interno dei recinti, sono animali che vengono fatti riprodurre, questa è una cosa a nostro avviso gravissima, perché comunque nascono animali solo per essere esposti ai visitatori, per passare appunto l'intera loro vita all'interno di quei recinti. Noi abbiamo visto parecchi animali completamente apatici, cioè praticamente privi di ogni istinto selvatico che possa avere un animale di specie selvatica o esotica. Poi abbiamo visto uno zoo che comunque sia dal punto di vista strutturale è molto molto scarno, perché tutti gli animali che sono all'interno dei giardini zoologici molte volte non possono essere lasciati andare liberati in natura, perché sono animali che hanno già subito una cattività, sono da molto tempo che sono detenuti, però gli si può dare loro qualche miglioria, qualche miglioramento ambientale, che nell'otto di Ravenna è assolutamente carente. Basti pensare che non c'è quasi una zona d'ombra, tutti gli alberi piantati sono alberi giovanissimi, vi è una carenza assurda di ripari, di tettoie, e parliamo anche di un posto che a Ravenna nel picco dell'estate, diciamo, sarà un caldo, sarà molto soleggiato. Sarà uno degli aspetti anche più negativi è il fatto che comunque questi animali sono praticamente sempre osservati dal pubblico, soprattutto nei mesi di picco, quelli che saranno luglio e agosto, che sono l'alta stagione, diciamo, turistica. Questi animali sono praticamente sempre osservati dal pubblico in automobile, e questa è sicuramente una forma di stress elevatissima. Scusa un'interruzione, volevo chiederti che animali ci sono precisamente, anche per dare un quadro completo agli ascoltatori. Sì, sono animali, come dicevo prima, sia selvatici che esotici. Vi sono vari tipi di antilopi, bisonti, cammelli, cervi, dromedari, vari tipi di uccelli come i fenicotteri. Tutti questi animali sono, diciamo, all'interno del parco, contenuti solo dalla recinzione esterna. Poi all'interno di questa recinzione vi sono delle aree più piccole, più limitate, in cui vi sono quelli che per ogni giardino zoologico sono un po' i punti di forza, perché sono gli animali considerati più commerciali, cioè, detto in parole molto spicciole, quelli che per cui la gente paga molto spesso il biglietto. Quindi parliamo di giraffe, ippopotami, leoni, tigri, e allo Zoo Safari di Ravenna hanno anche un elefante, che è tra l'altro un elefante in condizioni assolutamente non buone, né fisiche né psicologiche, perché tutto il tempo che l'abbiamo filmato dondola la testa, dondola il capo, ed è un comportamento che noi sappiamo appartenere un po' a quegli animali che hanno vissuto tutta la vita in cattività, come dicevo prima. E poi hanno anche dei primati, dei babbuini, dei lemuri, che sono contenuti in altre zone, in altre voliere, e hanno dei pappagalli e degli uccelli rapaci che utilizzano in alcuni spettacoli in una zona diciamo separata da quella dei recinti dello zoo. Senti, ovviamente quali sono gli interessi che sono dietro lo Zoo Safari di Ravenna? Cioè, chi c'è dietro, chi l'ha costruito? Okay. Allora, e questo è un aspetto principale, perché si entra un po' nel discorso molto importante dello zoo, perché oltre a ovviamente condannare quella che è la cattività degli animali per le conseguenze sia fisiche e psicologiche che subiscono gli animali detenuti, lo zoo del Safari di Ravenna è molto particolare, perché è di una società che si chiama Alfa 3000, che ha già di proprietà sia uno zoo a Fasano, che è uno dei più grandi, è il più grande in Italia, anzi per numero di animali, perché ne ha 1700, ma è anche uno dei più grandi in Europa, che è molto famoso, si conosce lo Zoo Safari di Fasano, e poi ha di proprietà, ha diciamo anche come proprietà, almeno alcuni suoi esponenti sono riconducibili al Circo Medrano, che è un circo, uno dei circhi più grandi, che utilizza animali negli spettacoli, che fa anche tournée internazionali, tournée all'estero. Perché questo aspetto qui è importante analizzarlo parlando dello zoo? Perché ad esempio la società Alfa 3000 si difende molto sostenendo che tutti gli animali che provengono dallo zoo, che riempiono i recinti dello Zoo Safari di Ravenna, sono animali che sono già nati in cattività, che quindi non è assolutamente possibile per loro un rilascio in natura. Questo è sicuramente vero, perché lo sappiamo che gli animali che già da molto tempo sono in quelle condizioni non sopravviverebbero a una liberazione, però molto spesso si dimentica di dire che se una struttura accoglie gli animali dei circhi, poi altri animali, animali giovani, subiranno l'addestramento e verranno inseriti in quel contesto che appunto è l'attività equestre, l'attività dei circhi. Scusate. Essendo l'Alfa 3000 proprietaria del Circo Medrano, questo è una sorta di circolo vizioso con cui loro riescono a guadagnare, proprio lucrare su quegli animali che sono anziani, che non possono assolutamente più essere utilizzati negli spettacoli circensi, e questo per loro è anche una sorta di comodo, perché comunque da questi animali esposti negli zoo guadagnano ulteriormente altri soldi, e gli si libera proprio un posto vacante per inserire altri animali nelle attività circensi, come dicevo, perché i circhi in Italia non stanno smettendo di utilizzare animali, anzi il loro utilizzo è sempre ben voluto dagli stessi stessi circensi viene considerato l'unico motivo per cui secondo loro la gente va al circo per vedere gli animali, cosa assolutamente falsa e menzognera. Inoltre nello Zoo Safari di Ravenna provengono tantissimi animali dello Zoo Safari di Fasano. Questo lo sappiamo perché noi abbiamo fatto la richiesta al CITES, al Comune, anche all'USL di Ravenna per sapere la provenienza degli animali, però non c'è stata detto, non era possibile saperla perché sono documenti che sono privati, personali della società Alfa 3000, però si sa che a Ravenna moltissimi esemplari sono quelli di Fasano. A Fasano sono stati fatti riprodurre e ora sono probabilmente troppi e hanno aperto una struttura per collocarli a Ravenna per guadagnare altri soldi. In questo senso lo zoo non è altro che un allevamento di animali selvatici o animali esotici, ed è una cosa orribile perché sono animali che nascono apposta per essere confinati per tutta la vita in un recinto di pochi metri quadri, ed è una cosa terribile, praticamente è una forma di tortura che noi assolutamente vogliamo e auspichiamo che finisca assolutamente. È un discorso concreto e recente perché basta pensare che poco tempo fa sono nate due tigri, due piccoli tigrotti, un maschio e una femmina, che addirittura abbiamo anche inserito alcune immagini nel video, che sono animali che apparentemente sono tenuti in una stanza, sembra quasi un asilo nido con tutti i giochi, una cosa che fa molto presa sulle persone, sul pubblico che li vedono, che si inteneriscono, che vedono che sono con tutti i peluche, sembrano un po' come dei gattoni così, ma sono animali che sono animali esotici che passeranno l'intera vita da una struttura all'altra, cioè non conosceranno assolutamente il mondo circostante, non avranno le avventure che dovrebbe avere un animale di quel tipo nella savana. E questa è una cosa orribile perché viene giustificata sotto la conservazione della specie, perché le tigri, come tanti altri animali, sono animali che sono minacciati da tutte le attività dell'uomo, che sono state la caccia, lo sfruttamento delle risorse, la troppa urbanizzazione. Però questo non è assolutamente un motivo per diciamo risolvere la tragedia dell'estinzione delle specie, perché è una cosa dal punto di vista etico che è terribile per quegli animali che sono detenuti. E senti, invece il rapporto, diciamo, vabbè, ce l'immaginiamo con le istituzioni locali, sarà ovviamente difenderanno completamente lo zoo, ma in generale con la cittadinanza e con che riscontri avete avuto, insomma, con le persone? C'è stato interesse anche lì a Ravenna nei confronti della vostra indagine, oppure, come dire, tutto tace perché tutto viene coperto per non disturbare? Poi se in questo momento di crisi economica, poi dove soprattutto, come dire, viene un po' ripetuto sempre il mantra, però non si possono mettere a rischio i posti di lavoro della gente, per cui qualsiasi cosa viene considerata legittima, anche purché dia lavoro a qualcuno, insomma. Qual è la situazione, insomma, che riscontro avete avuto? Allora, ti rispondo solo subito a quest'ultima cosa, precisando che è una giustificazione che hanno avanzato, ovviamente, ed è una giustificazione terribile, perché come hai detto te non si può assolutamente passar conto a quelle che sono le conseguenze di questo lavoro, anche se viviamo magari in tempi difficili, in tempi di crisi. Però nonostante questo, la reazione delle persone a Ravenna è stata ottima, anche la reazione mediatica, diciamo, all'uscita dell'investigazione. Non ci aspettavamo sinceramente un riscontro così alto, addirittura anche il TG1 ha fatto un servizio in prima serata proprio in anteprima sulla nostra investigazione, e poi la copertura mediatica locale è stata molto elevata, molto, ma anche quella, diciamo, delle persone, perché è una cosa che non ho dimenticato purtroppo di dire, che anche abbiamo preso, diciamo, lo zoo Safari di Ravenna un po' come simbolo anche di tutti i giardini zoologici, ma un po' anche perché è uno stato uno zoo particolare, perché per 10 anni prima della sua realizzazione c'è stato un dibattito incredibile a Ravenna, ma non solo a Ravenna, anche disteso, diciamo, al circondario, un dibattito quasi che aveva fatto desistere la società Alfa 3000 da realizzarlo. Poi purtroppo è stato realizzato. In tutti questi, diciamo, anni di campagne, anni di informazione rivolta alle persone, tutti i ravennati, ma veramente tutti, ovviamente non si può sapere, però un grandissimo numero di ravennati era contro la realizzazione della struttura e sapeva tutto quanto quello che c'era dietro la realizzazione della struttura, cioè il fatto che era una società di proprietà dei circhi, questo avrebbe solamente giovato ai circhi stessi che utilizzano gli animali, al fatto che la conservazione degli specie negli zoo è una buffonata priva di senso. E, nonostante questo, come hai anticipato, le amministrazioni locali hanno fatto quello che hanno fatto, perché non tanto quella attuale guidata dal sindaco Fabrizio Mettucci, ma quanto quella prima ha praticamente aperto le porte alla realizzazione dello zoo. Basta pensare che inizialmente il terreno era stato c'era stato aggiudicato, diciamo, a un'asta pubblica dalla società Mirabilandia, che poi ha girato all'Alfa 3000 tutto quanto il terreno a disposizione. Però addirittura si parlava inizialmente di costruire un centro congressi, di costruire un posto con degli hotel e un parco acquatico. Una volta che questa cosa è diventata, costruiamo in realtà un giardino zoologico, l'opposizione delle associazioni animaliste ha fatto sì che questo giardino zoologico almeno tra belle virgolette potesse contenere pochissimi animali, 198 per numero, e questi animali non fossero animali di specie esotiche. Solo 30 posti, diciamo, tra questi 198 erano riservati alle specie esotiche, proprio perché non si voleva dare una impronta troppo commerciale al posto. Quindi avevano detto: privilegiamo quegli animali che sono autoctoni del luogo e comunque anche già nati in cattività, senza quindi catture. Questo unico vincolo, diciamo, è stato stralciato addirittura a febbraio di quest'anno, per cui adesso lo zoo è proprio uno zoo a tutti gli effetti, non ha alcun vincolo. Basta pensare che si parla anche di arrivo di altri animali. Lo zoo tuttora è in espansione, è prevista la costruzione di un rettilario, anzi, che dovrebbe essere veramente terminata a poco, di un acquario anche. E niente, quindi si ingrandirà. Quindi, diciamo, lo smacco più grosso è arrivato dalle amministrazioni comunali, che hanno fatto costruire una struttura che, per quanto si paventi degli scopi scientifici, degli scopi didattici, in realtà mostra palesemente il ruolo commerciale che si prefigge principalmente. Questo è stato anche un po' lo scopo principale della nostra investigazione, cioè far vedere che in realtà tutto quello che avviene nello zoo safari di Ravenna, come nella quasi totalità dei giardini zoologici, sono solo degli espedienti per guadagnare sulla pelle degli animali, quindi in quel senso. Senti, un'altra cosa, si parla, scusate, c'è un po' di rimando. Allora, dicevo, si parla molto di quest'ultimo periodo di circhi, anche per quello che succede in realtà in altri paesi dove mano a mano li stanno proibendo. Però il panorama degli zoo, e questo forse è anche il grande merito della vostra inchiesta, insomma, che solleva un po' anche, diciamo, attira l'attenzione anche su questo settore dello sfruttamento animale. Ci puoi dire qualcosa sul settore, cioè più o meno, insomma, adesso quanti parchi o zoo sono in Italia, di che tipo, le situazioni, le condizioni di sfruttamento, di sofferenza degli animali, se tu sei, diciamo, è come nello zoo safari, o è peggio, o invece è minore, e via dicendo. Certo. Allora, in Italia la situazione è molto, molto confusa, perché vi sono tantissime strutture, ma non vi è un censimento vero e proprio a livello di legge che riesce a quantificarle. L'unico dato che sappiamo è che ad agosto del 2012 88 strutture avevano avanzato la richiesta per avere la licenza di giardino zoologico. Ce ne sono sicuramente molte di più. La confusione, diciamo, in Italia è che la legge dei giardini zoologici è accorpata anche insieme a una legge che praticamente equipara i giardini zoologici, che sono strutture fisse, ad altre strutture che non sono fisse, che invece detengono sempre animali per cattività. Pensiamo appunto ai circhi itineranti o altre mostre di animali itineranti. Questo ha generato una gran confusione, per cui alcune strutture non hanno avanzato la richiesta di licenza di giardino zoologico anche se hanno degli animali in cattività e sono struttura fissa. In Italia vi è sicuramente una diversità anche di tipologie di giardino zoologico. Vi sono sicuramente anche quelle strutture peggiori che per mancanza di fondi, per mancanza di volontà, cercano di apportare alcune migliorie, magari vi sono animali in gabbie piccolissime con pieni di comportamenti stereotipati. Vi sono anche altre strutture, come quella di Ravenna, effettivamente, che appunto ha inaugurato da poco, quindi si è potuta permettere anche di allargare leggermente gli spazi. E aggiungo anche che noi abbiamo proprio voluto coraggiosamente quasi prendere Ravenna come esempio di tutti gli zoo, perché alla fine certamente è buono avere qualche miglioramento, spazi più ampi, meno stress per gli animali, però quello che vogliamo criticare è anche il senso della cattività in sé, il non senso di fare riprodurre animali solo per posizionarli in un recinto affinché la gente possa andare lì davanti e meravigliarsi di loro, perché non sono dei pezzi da museo da mettere in bella mostra, ma sono animali che hanno delle esigenze, dei bisogni che negli zoo non sono assolutamente rispettati. Appunto anche in quello di Ravenna, che magari confina gli animali in spazi leggermente più ampi rispetto agli altri, comunque sono tantissimi aspetti che non saranno mai conciliabili con il benessere degli animali. Noi abbiamo visto visitatori che davano del cibo agli animali tranquillamente perché appunto la struttura lo permetteva di farlo, carenze di ripari, animali apatici, mancanza di vegetazione, e anche se ci pensiamo al fatto che comunque sono tanti animali che non vivranno mai in un clima, nel loro clima tipico, del loro ambiente naturale, del loro habitat, quindi sono animali che sono completamente asserviti alle volontà dell'essere umano. Ti volevamo chiedere poi se cosa pensavate di unire a questa investigazione, cioè voi volate creare una campagna, lanciare delle manifestazioni, non lo so, avanzo delle ipotesi, dici tu semplicemente quali sono i prossimi passi che vi siete proposti? Certo, allora, non è una campagna, quindi non è una campagna che pone l'obiettivo della chiusura o di apportare determinate modifiche. Noi abbiamo fatto questo lavoro a scopo di sensibilizzazione, per sensibilizzare appunto le persone, per invitarle a non visitare i giardini zoologici, a boicottarli. Comunque, anche se non è una campagna, abbiamo in previsione delle altre iniziative, anche perché soprattutto proprio in questi giorni è una notizia abbastanza recente, si vocifera che allo Safari di Ravenna arriveranno alcune tigri un po' particolari, cioè quelle tigri che sono saltate agli onori della cronaca al parco in provincia di Torino, al parco di Pinerolo, che è il parco Martinat, un giardino zoologico che ha chiuso da anni, che però ospitava alcune tigri in una situazione abbastanza fatiscente, tigri di proprietà di due persone molto anziane. Una di queste due persone, non so, magari qualcuno avrà avuto modo di leggerlo sui giornali, di sentirlo dai media, è stato ucciso da queste tigri. Queste tigri quindi lì non possono più stare, sono 10 tigri e un leopardo in totale, mi sembra, sì, e lo Zoo Safari di Ravenna ha avanzato la disponibilità di ospitarne alcune. Ovviamente sui giornali è uscito un articolo con tanto molto, diciamo, pubblicitario a favore dello zoo, perché comunque sono tigri che, per quanto al di là di questa tragedia che è successa, sono tigri che, per cui è facile immaginare anche che incuriosiscano molto i probabili visitatori, i probabili spettatori. Noi pensiamo di aderire a una richiesta avanzata anche da un'altra associazione animalista che si chiama Animal Amnesty, che per quanto queste tigri ovviamente debbano continuare, diciamo, a vivere tranquillamente, serenamente la loro vita, però vogliamo chiedere alle istituzioni che si impegnino nella sterilizzazione, che sarebbe un aspetto anche simbolicamente molto importante, perché almeno non darebbero vita a nuovi animali che appunto confinati per sempre nei giardini zoologici, che è il problema, diciamo, grosso di queste strutture, perché per quanto quegli animali esistano e vadano, devono passare la loro vita, per quanto se vengono fatti figliare, continuamente partorire, questo problema non finirà mai. E quindi pensiamo di fare questa cosa, quindi in qualche modalità ancora da vedere, comunque di impegnarci per chiedere la sterilizzazione di questi animali. Voi avete già fatto diverse investigazioni, questa sullo Zoo Safari ne è una, poi ha citato Visioni Liberi. Comunque in Italia negli ultimi mesi sono uscite diverse investigazioni fatte da diversi gruppi, no? Ci puoi dire qualcosa sulla pratica dell'investigazione? Cioè, secondo voi quali sono i vostri punti forti, diciamo, del portare del portare la realtà dello sfruttamento animale in tutte le sue forme, che spesso è nascosta e chiusa in strutture e luoghi specifici ben vigilati, e portarli invece all'attenzione di tutti, creando sia un impatto, portando diciamo sia a far riflettere le persone, ma anche creando un danno d'immagine agli stessi sfruttatori di animali, e magari anche quali sono invece le difficoltà anche da un punto di vista insomma emotivo, perché certo non è facile comunque vedere per un certo periodo di tempo queste scene di sfruttamento di animali, di prigionia di animali, senza poi concretamente no poterne anche ovviamente intervenire. Insomma, la pratica dell'investigazione, se ci vuoi dare la tua impressione su questo, su cosa significa, cosa anche comporta a livello emotivo, come ci si deve preparare psicologicamente, e quali sono gli elementi forti, gli elementi positivi di una pratica del genere. Certo, allora intanto la parte positiva dell'investigazione, perché è una, ovviamente la parte principale, è una forma di sensibilizzazione, e penso che di sensibilizzazione, di informazione, di educazione verso le persone ce ne sia un bisogno incredibile. L'aspetto buono dell'investigazione, magari a confronto di altre forme di attivismo, così, è il fatto che con l'investigazione si fanno vedere veramente alle persone le cose recenti che succedono in quel momento, in quel luogo, e quindi è una forma a cui realmente non ci si può scostare. Abbiamo fatto tantissimi banchetti in tantissimi anni di attività animalista. Capitava di avere ad esempio un cartello con l'immagine della vivisezione o delle pellicce. Molto spesso queste immagini erano magari prese da internet, potevano essere immagini datate, potevano essere immagini estere. Con le investigazioni fatte proprio in prima persona, questo aspetto si sorpassa, perché veramente si mostra alle persone cosa succede in quel luogo e cosa avviene agli animali, e glielo si fa vedere o glielo si fa anche sentire, quindi si sentono anche le grida degli animali. E penso che sia difficile proprio per chi è dall'altra parte, per chi ascolta, per chi guarda in quel momento, sottrarsi. A livello emotivo è una domanda molto difficile da rispondere. Penso che con il tempo si arriva a un meccanismo molto personale interno alle persone, perché vedere poi dipende anche da investigazione a investigazione, quindi un conto entrare dallo zoo, un conto magari anche entrare dentro un allevamento di visoni, vedere molti animali feriti, alcuni moribondi, si mette una sorta di filtro, penso, sicuramente, perché sono immagini che sono più grandi di noi, fanno parte di una sofferenza che è molto più grande di noi, per cui ci si sente tutti i giorni veramente impotenti. Il fatto di sapere che in quel momento si sta facendo qualcosa, con la speranza che veramente la risonanza di questo qualcosa sia più grande, quindi sia anche magari capace di abbattere un giorno tutte quelle gabbie, di aprire tutte quelle gabbie, quello direi che muove ogni passo del nostro attivismo. E niente, abbassi. Cioè, abbiamo sempre problemi di rimbombo. Anche io mi sento un po' in lontano, ecco, ci hai dato un quadro anche dell'investigazione dal punto di vista emotivo, che già avevamo avuto altre volte modo di riscontrare. Invece, così, come tipo di lavoro, come impegno, un'investigazione penso che sia un lavoro notevole. Quanto lavoro è una cosa totalizzante, quanto tempo, se ci vuoi dire qualcosa del genere, anche per dare un dato del lavoro che avete fatto. Tanto, è quantificante, cioè proprio è difficile quantificarlo, non sia a livello di tempo, perché veramente impegna tantissimo tempo, poi anche lì dipende da che lavoro. Il lavoro dello zoo safari ad esempio l'abbiamo fatto durante la primavera, siamo riusciti a fare tutto in 3-4 mesi all'incirca. È una cosa che impegna molto anche a livello mentale, non solo di energia pratica e di tempo, perché comunque è una sorta di proprio di full immersion in un lavoro, diciamo. Poi anche lì forse dipende veramente da investigazione a investigazione, comunque sia una cosa che prende veramente buona parte di tutta la giornata, sicuramente. Se non hai, ogni volta che rientriamo in onda si scorda il nostro amico qui al mixer di abbassare il microfono, quindi rimbomba tutto, scusa. Se non hai qualcos'altro da aggiungere, se ci vuoi lasciare dei contatti, Sì, soprattutto i riferimenti per vedere sia del vostro sito che anche quelli del sito che avete fatto per vedere, perché tutti possono vedere, certo, comunque la volentieri vostra, vi ripeto il sito della, specifico dell'investigazione sullo Zoo Safari di Ravenna, che è www.safariravennadossier.it, e poi c'è anche il sito internet della nostra associazione, www.esseranimali.org. Lì potete trovare tutti i contatti, intanto vi posso dire la mail, che è info@esseranimali.org, per qualunque informazione, consiglio, per dare informazioni scriveteci pure, rispondiamo a tutti quanti e vogliamo il confronto con le persone, quindi molto volentieri. Ok, grazie mille. E qualsiasi cosa, noi siamo qua, anche qualsiasi novità e via dicendo, la radio e soprattutto la nostra trasmissione è, insomma, a disposizione, e vi facciamo i migliori auguri, niente, per il vostro attivismo, insomma, per le vostre anche indagini sulle varie forme, le vostre iniziative, e grazie ancora per aver partecipato. Grazie, è stato un piacere, alla prossima, quindi. Ciao. Ciao, ciao. Mettiamo una canzone intanto. allora ritorniamo in onda. Vi veniamo a leggere quello che è un comunicato del coordinamento Liber Selvatec di Bergamo sul dopo 8 giugno, riflessioni pratiche in cammino. Ricordiamo, l'8 giugno c'è stata una manifestazione contro l'apertura di un allevamento di visoni. Se sei un uomo libero, allora sei pronto a metterti in cammino. Citazione di Henry David Thoreau. Dopo un corteo, apparentemente, sembra semplice fare un bilancio dell'iniziativa e ciò che attraverso essa si è prodotto. Nel nostro caso, questo appare invece più complesso, perché dobbiamo estrarre quella che è la manifestazione dell'8 giugno contro gli allevamenti di visione da un'unica e continua progettualità che ci ha spinti a mobilitarci in questi mesi e a dar vita al coordinamento Liber Selvatec. Cominciamo con la necessità di condividere quello che per noi non ha significato questa manifestazione. Un momento molto importante, ma non sicuramente l'apice o l'arrivo della nostra progettualità, piuttosto una delle tappe lungo il percorso. La manifestazione è stata un terreno dove sperimentare nelle pratiche e sperimentarci attraverso queste, un terreno per l'analisi di quello che rappresentano questi allevamenti, localmente e non solo. Di come questi allevamenti svelano le ampie catene e meccanismi dello sfruttamento attraverso le quali i viventi vengono distrutti, silenziati, manipolati, quindi annientati. Non abbiamo voluto distinguerci a tutti i costi da qualcuno o da qualcosa con una critica che, come spesso avviene, rimane poi fine a se stessa. Come abbiamo detto in questi mesi, nelle nostre presentazioni in giro per l'Italia, non esistono parole chiave, soprattutto se slegate dai contesti situati. E il nostro richiamarci al movimento di liberazione animale cerca anche di andare oltre a un uso parziale dei contenuti che esso esprime. Di fatto, troppo spesso, le pratiche agite in nome dello stesso movimento di liberazione animale smentiscono il reale riferimento allo stesso. Come coordinamento, sentiamo l'esigenza e abbiamo intenzione di lavorare sui contenuti che stanno nell'ombra della parola chiave, che vengono utilizzate e spesso svuotate fino a produrre ambiguità. Nello specifico, scegliamo di muoverci nel campo di come e cosa sia da intendere l'antispecismo, non tanto per ridefinire o creare una nuova teoria da aggiungere a quelle esistenti, piuttosto per tentare di dare un senso al tutto, per tentare di rivoltare i pensieri e le pratiche affinché le singole specifiche lotte trovano sire in una risonanza in una modalità radicalmente altra di azione. Se è vero che desideriamo e agiamo affinché la parola e l'azione non vadano slegate, anche per quanto riguarda le pratiche abbiamo deciso di agire di conseguenza, intraprendendo un percorso più tortuoso e decisamente poco battuto, e per questo anche libero e creativo, un laboratorio di liberazioni. Il fatto di aver organizzato la manifestazione a Bergamo e non direttamente nei paesi interessati dagli allevamenti ha voluto dire per noi cercare di realizzare e costruire un momento di interazione tra tutte e tutti coloro che sentono l'urgenza di riconnettere le parole e le pratiche per le liberazioni animali. La scelta è il frutto della volontà di dare risonanza a questi fatti, l'apertura degli allevamenti di visioni e i progetti che vanno in questa direzione, evitando mediazioni e progettualità che sentiamo distinte e distanti dalle nostre. Non abbiamo voluto costruire una mobilitazione virtuale dove la sostanza è costruita dalla mera apparizione dello spettacolo della sua rappresentazione, dove l'obiettivo che ci si pone, la chiusura degli allevamenti, è spettacolarizzato da immagini truculente che ci chiediamo se riescano ad andare oltre la dimensione emotiva. Rifiutiamo a priori di considerare i nostri interlocutori come meri destinatari di una strategia efficace da plasmare e manipolare secondo le caratteristiche del momento. Non ci riferiamo a consumatori o a quello strano essere che è l'utente, ma a persone con le quali confrontarci e liberarci. Se ci troviamo sempre più immersi in una società dove le relazioni si spostano sempre più su un piano virtuale, mistificate e mediate dalla tecnica e rette sul silenzio e sui non detti, noi preferiamo restare indietro, in quello spazio dove ancora si considera fondamentale interrogarsi continuamente sul senso di quello che facciamo e soprattutto sul come sia impossibile ottenere le liberazioni animali all'interno di questa società che si fonda su logiche antropocentriche ed ecocide e che legittima così i suoi rapporti di dominio. Restare indietro non significa perdere di vista il traguardo e temporeggiare. Per noi significa cercare di renderlo più chiaro. Il traguardo non è solo un risultato, la fine di un percorso, un obiettivo raggiunto, piuttosto un costante laboratorio di liberazioni, un continuo camminare. Firmato dal coordinamento Liber Selvatec, e di cui ricordiamo i contatti sono liberselvatec.noblogs.org e l'email è liber.selvatec@inventati.org. Va bene, adesso Moscio si va a bere 2 litri d'acqua e noi continuiamo con la trasmissione o mettiamo una canzone? Questo lo deve decidere Moscio, che è un po' il re del mixer. No, io proporrei la canzone, ecco. Mettiamo una canzone, ma temporeggiamo un attimo anche per mettere in difficoltà Moscio, che deve passare da un microfono all'altro. Anche perché Moscio, oltre a essere completamente disidratato, era rimasto incassato coi fili del mixer. È una scena veramente atroce, quindi. Ma adesso mi sono liberato e mettiamo gli Agitazione con Vivi Sezionati. Sulle note delle Agitazioni sfumando, ritorniamo in diretta e torniamo, sì, abbassati il microfono e torniamo con gli appuntamenti e ripetiamo quello che avevamo già detto la scorsa settimana. Trovate tutto su informazione.info. Monte San Pietro Bologna, 2 giorni a Las Vegas, benefit prigionieri anarchici, 19 luglio e 20 luglio. 19 si comincia alle 5 del pomeriggio, 20 luglio giornata piena. A Las Vegas, a Monte San Pietro Bologna, il 19 e il 20 luglio 2013, 2 giorni benefit per i prigionieri anarchici e gli inguaiati con la legge. Inizio concerti alle ore 17. La repressione è per alcuni una realtà quotidiana. Confrontarsi con il pugno di ferro delle istituzioni, con il carcere, gli allontanamenti coatti dalle proprie città, le aule di tribunale, è un'eventualità per chiunque decida di fare di questo mondo e delle sue logiche di sfruttamento un nemico. Chi è colpito dalla repressione non può essere lasciato a sé. Un festival punk hardcore è il nostro modo, tra i tanti che si possono scegliere, di portare solidarietà, di farlo urlando con rabbia e gioia. Segue elenco dei gruppi che suoneranno, dai Nemesis ai Lud e via dicendo, e qualche informazione importante sull'iniziativa. Campeggio libero, quindi chi vuole deve portare la tenda, portare ovviamente la distro se si possiede, è un posto all'aperto, quindi rispettare il posto, ovviamente cibo vegan e poi soprattutto no nazi, no infami e fuck Macho Man Bullshit Attitude, che non so che attitude. Cosa vuol dire. No, macisti e i bulli. Ecco. Ah, okay. No, veramente. Okay, bullshit non vuol dire bulli. Cioè, sarebbe. Bullshit sarebbe tipo coglionazzi, cioè. Vabbè, però sembra. Macisti coglionazzi. Attitudine macista coglionazza di merda, il vaffanculo. Bullo è legato, vorrei dire. Vabbè, bullo, non, però non vuol dire bullo, cioè. Vabbè, dai, vabbè, bulli. Comunque, vabbè. Su informazione alla sezione Upcoming Events trovate il riferimento a questa due giorni, trovate anche tutte le indicazioni per raggiungere Las Vegas, che noi li avevamo sentiti, mi sembra, 3 settimane fa, i ragazzi di Las Vegas, per un ciclo, quella volta, di autoproduzioni. E vabbè, niente. E poi tra gli appuntamenti a Roma, questo weekend ricordiamo che ci sono 2 appuntamenti distinti per quanto riguarda gli arrestati e l'arrestare per i fatti di Genova 2001, cioè sabato 13 e domenica 14 all'ex SNIA, Devastatore lo Stato, Genova G8 2001 non è finita, sabato sera concerto The Bomb Machine e Blood 77 e poi tutti i frutti Apocalypse di DJ Lubna Barracuda e Murder Farts, mentre domenica 14 rave teatrale delle Voci nel Deserto, la raccolta differenziata della memoria con Ascanio Celestini. E poi invece sempre per quanto riguarda domenica 14 luglio ovunque Taksim, ovunque anarchia, Rier Taksim Rier Anarzi, che credo che sia in turco. Beh, sono bravissimo a dirlo in turco. Sembra da poliglotta te, quindi. Intervento e materiale informativo sulla situazione in Turchia e pasta sul posto, bicchierate, sfizi vari, distribuzione anarchica e autoproduzioni, in serata in concerto con le Folk Noir e le 11 minuti di melodie da Scolletto, Al di là del pene e del mare. Ad un anno dalla sentenza sui fatti del G8 di Genova 2001, lo Stato continua a farsi giustizia privando gli individui della propria libertà. Alberto, Marina, Francesco e Ines liberi. Villa Giordani, entrata via Alveano Romano. Villa Gordiani, scusate, sono alfabeta. Villa Gordiani, entrata via Olevano Romano, tram 5, 14 e 19. Basta, io ho detto. Basta. Penso che adesso possiamo dire gli appuntamenti. No, veramente li abbiamo. No, gli appuntamenti no. Abbiamo appena detto. I contatti. Se ci volete segnalare qualsiasi cosa, mandarci le vostre riflessioni, i vostri comunicati, come volete, l'indirizzo email è lagazzaladra@inventati.org. Se invece volete leggere quello che pubblichiamo, risentire le trasmissioni, collegatevi sul nostro blog che è radiopossum.noblogs.org. E poi ricordiamo anche i contatti di Radio Onda Rossa, soprattutto per sottoscrivere a questa radio che, lo ricordiamo, non ha padrini politici né padroni economici, non trasmette pubblicità, però soprattutto non campa d'aria. Quindi se volete sottoscrivere al conto corrente postale 6180-4001 intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via Revolci 56-00185 Roma, sito www.ondarossa.info, sul quale potete anche trovare un metodo di sottoscrizione telematica per chi è capace, per chi vuole, insomma, per chi può. Va bene, allora direi che ci possiamo salutare. Sì, penso che è ora. Come al solito, un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati e private della propria libertà personale, siano essi umani o non. Ciao. Ciao.